Graziano. E beh, bello bene. Allora, Lube, sì? Attenzione, Gian Maria. Sì, Vittorio, buonasera. Sì, buonasera. Sono qua a Predanie da Vemmo. Ah, barra mobile. Sì, allora, se che ci tenne che siamo in figliura. Ah, ah, vai bene, insomma, vai bene. A Guglia. E bene mi senti a me? Abbastanza, fondo scala. Vuol dire che in Altemino già va bene, Hai visto? Basta, vado a fare stazionari e va bene sempre, anche dentro casa, Anche dentro casa. E infatti allora, sono a parte dietro, si può immaginare, eppure arrivo lì. Andava, guarda che sono diventato un fosso in oggi. E arrivo ugualmente, ma anche tu arrivi bene. E con questo portatilino, io non grido. Ehi, te lo credi, va bene tu. Vanno bene anche il portatilino che... Vanno, se non c'è impedimento davanti, arrivano. No, non c'ho nulla, Mila, ecco, la banca c'ho davanti solo e basta, però è lontana. E chi è questa? Ah, boh, ma che intendo io? Ah, no, è sulla tua frequenza, linea nazionale. Ah, boh, non lo so chi sia. Ma è perché tu non ce l'hai quella frequenza lì? No, ce l'ho, ma è... Devi cambiare. E beh, logico. Io pure sto comportato lì, noi. Siccome vedo il segnale, allora cambio e li sento, capito? Infatti. Oh, mi sa che dove sono, dentro il fosso, non la conosco. Ma sei arrivato basso, però tu. No, non lo so, Gian Maria. Adesso è perfetta. Allora, l'ho sollevato un pochino. Va bene adesso, va bene. A Guglia. 5, buona, buonissima. Sì, se no, pazienza, se no arrivo. A Graziano. Non l'ho sentito, mi ho acceso pochi minuti fa perché ero in campagna. Appena che sono salito acceso mi ho sentito a te. Sì, andiamo via, andiamo allora. E infatti ho chiamato bello bene, forse che credevo che ci fossi Graziale, invece non c'è. Ha detto Graziale bello. Ehi, sarà la vetta di piatto a Pedabuglio. Certo, andiamo via, andiamo. E lui è sempre zaffarato, una cosa o l'altra, non mai fermo, è sempre zaffarato, il motore sempre in moto. Infatti, fate bene che sia sempre in moto, ma così si muove un po' carino. Ehi, li fa che bene pure. Lasciamolo fare, già entra, hai visto ieri sera, quando è entrato non ha finito aprile alle 8. E quando è comincia non la finisce più, almeno quello lo rivive. Infatti, ma così salta un po' Garedo e gli passa un po' tutto quanto. Infatti io mi sono assentato perché è venuta gente e sapevamo che era di verticale, capito? Però lo sentivo piano piano perché ho abbassato il volume, lo sentivo sempre in ruota, sempre in ruota lui fino a quell'ora. E mi pare che è stato fino alle 7:30, e poi si è ritirato. Mi pare che c'eri anche tu, e tu c'eri, però prima ha chiuso lui, io vi ho sentito ma non potevo entrare perché stavamo chiacchierando in verticale con una persona, capito? Infatti... E lui ha chiuso presto, poi ha chiuso Bacchisio, c'era Luca che non l'ha già inteso. Forse era merendando. Non lo so, o era preparando che a magna. Eia, ma stasera stavamo lavorando in campagna con Luca, così che eravamo in zapparazzo la sera, stasera. Abbiamo fatto un bel movimento oggi, E ama così sciuso un po' garido. Sì, no, c'hai no, che lampato, gatta, t'annoieggi, almeno così, un po' di svago, fa bene il movimento, fa benissimo, perché sono diventato un po' poltrone a fare movimento. Vabbè, fa così fa. Ma drone sono diventati tu. Avanti se dai, cosa si può fare più? Marito deve camminare, fare movimento. Sì, perché se si blocca guai, deve sempre essere in movimento, scendere in campagna a fare qualche cosa, senza sforzarsi, però deve fare sempre un movimento. Sì, Giulia, catta, andiamo nel bongo di Gosa. E proviamo a vedere, insomma, Giulia. Ma io di notte faccio, ho preso una pastiglia, catta, non riuscivo nemmeno a sollevare a prendere il microfono ieri sera. Ti puoi immaginare quando comincia questi dolori non finiscono mai. Già metto il braccio destro, non riesco a sollevarlo. Oggi ho lavorato, oggi sono stato bene, dai. Però ha un termine quella pastiglia, domani mattina magari ricomincia di nuovo, purtroppo fa quell'effetto. Sì, cazzo, sarà così. A vecchiaia, a carrogna, tutti i malati mi sono scelto a Pisa, va. Fa una cosa, fa l'altra. Quindi a me mi sono cominciato a venire invece di dolore. Cazzo, c'è come un mese che mi dolono i fianchi. Ma io adesso mi sono fatto delle fratture che ho avuto al bacino quando mi sono caduto all'albero. Mi erano passati i dolori, però me l'hanno detto, dice come cambia il tempo, poco a poco riuscitano di nuovo, e così è. Adesso ho passato l'artrosi e tutto il bacino, per cui certe volte non riesco nemmeno a camminare. Quando me ne alzo dalla sedia, se sono 10 minuti seduto, se me ne alzo, cazzo, mi devo ammantenere che non reggi neanche, ti puoi immaginare? Certo, le muove allora. Le tacce, Gio Marì. Marcello, quello mi ha detto, c'è a camminare, devi camminare, e se è possibile dimagrire pure. Certo. Fare in ginnastica, movimento, camminare, adesso per dimagrire ho detto non mangio più, ma tutti li immagini. Certo, a dame a base, mone a fa dieta, a me me l'ha detto, se deve fare la dieta e sì, e così andemmo. Ma anche l'altra volta mi avevo così. Cazzo, ho stato una settimana proprio, ma mi stavo rompendo, mi sono dalle intuito, io finché c'ho fame mangio, magari senza esagerare, però mangio, capito? Certo che certe cose magari non le mangio, però ne mangio poco, magari però la mangio la cosa, capito? Come fai? Se hai fame bisogna che mangi. Movimento, già da in avanti lo faccio, un po' con la pedana, un po' magari giù, e qualche volta scendo in campagna, e diversamente lo posso fare, e come fai, Giulia, per carità. Però, sono le braccia, quelle cose sono le braccia, perché certe mattine non riesco nemmeno a lavarmi la faccia. Devo farmi la sinistra, se mi fa male anche la sinistra, puoi immaginare. Già lo so. Io vado con il braccio sinistro che mi fa male il muscolo, pensa un poco, avrà già un 4 anni così. Ogni tanto mi viene il dolore, ogni tanto mi bassa, mi viene, mi bassa. Ma detto operarmi, cosa spereggia, mi pongo a farmi operare. Te la danza così in che campa? Io faccio i tendini, io il tendine destro ce l'ho rotto. Ti puoi immaginare in che condizione può essere quando è rotto così. Magari mi cambia, quando prendo quella pastiglia mi cambia dolore per un giorno, l'indomani comincia di nuovo, capito? Il che se voi malissimo, ho più dolore di preso tutti i giorni questa pastiglia, ma come fai? Si è preso quella pastiglia e aumenta la glicemia, capito? Anche quello. Per cui magari la prenderò ogni 3 o 4 giorni, però quei giorni lo so io come passo quei dolori, capito? Se vai anche a prendere il cucchiaio per mangiare, secondo come lo giri, come giri la mano, mi fa male, capito? E quello è il punto, capito? Perché più dell'altezza della bocca lo posso alzarlo, capito? Per alzare più su della bocca me lo devo sollevare con la mano sinistra, capito? Così, è un macello, ecco, è un macello. Però quando prendo la pastiglia, come l'ho presa ieri notte, grazie a Dio adesso riesco a sollevarlo, però domani mattina me ne accorgo come cosa succede, capito? Giomari, bisogna resistere al dolore un po', e poi se arriva te lo trattieni o ti prendi la pastiglia, e due. Con il dolore non si può stare, ma bisogna alzarvi. Devi sopportare, basta, c'è proprio buia, perché sta, purtroppo è così. Ma come dicono, raddoppiamo e tiriamo avanti, se deve fare diversamente, non si può fare niente, non si può fare niente, loro ci sono e ci saranno, e più si fa e peggio diventa una persona, capito? Anche le ossa si consumano, Ma lo so, sì, Gio Maria, lo so che è così. Ma se 27 non fai un'anima, manco un'anima, E se vai sul 10, forse sì. Anche butto lì. Ma tanto, anche senza gente, no? Non mi interessa a me i 10, capito? Se no parliamo noi, non ci parla altro nessuno. Ma noi ce l'abbiamo il canale nostro. No, dobbiamo parlare, ci andiamo su 23 e chiacchieriamo. Perlomeno. Io la penso in questo modo, capito? Io a me su 10 non mi è piaciuto e non ci vado. Anche se c'è la ruota, che se ne frega, ma non mi interessa, capito? Non li ascolto nemmeno, si può immaginare. Io preferisco rimanere su 23 ascoltando anche se non c'è nessuno, così. Vuol dire di guardare la televisione e ascolto finché non entra qualcuno su 23. Infatti, anch'io faccio così, non c'è nessuno. Sento parlare al PMR, entro nel PMR, se no, vabbè, devo dare visore. Esatto. Io quando accendo tutti e due. Capito? Quando accendo uno accendo l'altro, capito? Che c'ho l'interruttore, come solleva si accendono tutti e due, capito? E per cui io uno PMR, in quell'altro altro sento in tutti e due, capito? Il PMR è dall'altra parte sento anche, capito? Infatti, così bisogna fare, se no ohia. Tanto che sta a coso. Lasciami quando sei in casa, ci ho, ti annui e ciao. Cosa mi fa? Però non avanti, bene scendo giù, perché devo camminare, almeno la mattina esco a piedi, faccio la camminata, scendo giù, mi prendo il pane, ci sarà, ci risalgo a piedi, e qualche giretto qua dietro, capito? Sto uscendo la maggior parte, me ne vado qua dietro, passeggio, almeno mi fanno bene ai movimenti del bacino, capito? E per cui almeno un'oretta, un 20 minuti sulla pedana e tiro a campare, cosa vuoi fare? Piano piano, una passeggiata oggi, una passeggiata domani. E si va dei chilometri. Sulla pedana faccio 20 minuti ora, però adesso ho dimezzato, capito? faccio 20 minuti o mezz'ora, 20 minuti o mezz'ora, capito? Perché camminando a piedi e il movimento, già lo sai, sì, i movimenti ci sono, però non è quando, come quando cammino a piedi, capito? Tra il peso, il sollevamento del piede e quando trovi l'affallamento, eccetera. Infatti, però è tutta diversa camminare a piedi. Sì, scendere lì, lo so, verso Cesaraccio, fatti il giro sulla chiesa, salire, quello è il movimento perfetto, allora va bene, però bisogna farlo tutti i giorni, e chi ne ha voglia, oh io già faccio la compagnia, se non ha giocato a camminare, già mi fate camminare in su. Ah, beh, tu c'hai il cane, per cui è obbligato a uscire a fare il movimento per forza a piedi, e anche quello è un dovere da fare, so. Non mi fate compagnia di ciò, e mi dite un po' di volte, mi dite, beh, a te muovi. È così purtroppo. Quante volte lo togli da casa fuori? 4 volte al giorno. Certo, anche quello è un dovere che bisogna fare, una volta che ce l'hai l'animale bisogna anche dargli contento e fargli fare i doveri suoi, capito? Ma io comincio a girarmi male. Prima ce l'avevo con mia figlia io, ne avevo due. E per cui lei stava lavorando, questi che toccava a me, però ce l'avevo a casa e per cui io toglievo io 3 volte al giorno. Però adesso non ce l'ho, e non ne voglio più animali in casa, nulla nonno. Mia figlia ce l'ha però in casa sua e per cui si arraglia lì. Anzi, l'anno scorso che è andata fuori, ma detto se rimaneva almeno una settimana a casa sua, adesso da casa sua dove mi vola e lo toglievo io il cane, capito? Fuori. Lo so, purtroppo. A me mi era accollato, ma mi era giù di tutto, già rettondo. È un impegno quello, sembra così, ma è un impegno. Che certe volte non puoi fare, c'è questo animale, non puoi fare quello che vuoi. No, infatti non puoi fare quello che vuoi, no, è un impegno così. Aspetta che da bere, che ho sentito. Vai, vai, io sono qua. Eccoci, tu. Gian Marino, sono qua, sta aspettando. È entrato Graziano, no? No, nulla da fare, non è entrato, no. Attento Graziano, vuol dire che è da parato, da. Oh, ecco quell'apparecchiatura facendo ginnastica. Non può entrare, vabbè. Andava, vabbè, già, entrerà più tardi. Caro, ma chiamata il tempo, è un bullo. Meno male c'ha l'apparecchio, sennò sarebbe annoiato. Oh, già non si annoieggia, chiedi a Anna che fa in casa. Certo. Ho detto che devi fare altra cosa, burro. Ma io penso che ha già poco tempo, va, se un chissà apparecchi così, oia, cazzo, macello, oia, il cura caffè in mezzo. Infatti è brutto avere questa cosa così. Boh, certo. E adesso, tu Gianmarì, dove del medico del coso, del diabete, dove ce l'hai, al Palazzo Rosa? Sì, la mia, la dottoressa Spano. Di fronte dove vai tu, no? O no? No, il mio è alle cliniche. Ma me ne zecco di cane, me ne zecco un altro, me ne zecco e me ne ando da lì su. Cata, mi buttava, mi puttene un anno, mi puttene. E io c'ho la dottoressa Spano da un mezz'anni, capito? Da quando sono diventato diabetico. Da 60 anni, ecco. Io a 60 anni sono diventato diabetico. Ce l'ho l'apparecchio io, capito? Che... Questa è molto brava, troppo brava, ti spiega le cose tutto bene, come fare, come non fare. Quando vedo una cosa che non è giusta, te lo dice con l'armonia giusta. Ti dico che è molto bravo, molto bravo. Guarda, prima ero lì, che è San Pietro, ma lei mi stava ammazzando, mi stava ammazzando, stavo sempre male lì. Ma quando sono con questa sono nel cielo, proprio il zio gioco. Adesso, guarda, la prossima settimana, guarda a vedere. Guardo di Gian Bambino che non ne busso più, io sta un anno senza farmi controllare. Me mi controlla ogni 4 mesi, a dire verità, 4 mesi. Sì, adesso devo andare dunque in aprile, magari il 23 aprile devo andare, ogni 4-5 mesi me lo fa fare la visita, capito? Mi fa fare, se ce la fa di fare qualche visita, ti fa l'impegnativa direttamente e poi prende l'appuntamento. Certo, magari te la prende lì pure l'appuntamento, capito? Mia mamma mi ha segnato in cardiologia andare a fare la visita di controllo, catamela nera da 23 ottobre. Purtroppo certe visite così, vuol dire che quando la fai, se tu fai oggi per il controllo, quella vita non l'hai fatta, quando la fai gliela porti, capito? Io di solito faccio così, capito? E adesso prima andare lì devo fare le analisi, faccio l'analisi e quando vado gliele porto, capito? Mi sa che entro in settimana ci vado e chiedo se posso andare da lui. Vedo un posto, questo io ripeto, è troppo brava questa, devo anche dirlo, capito? Mentre invece dovevo prima, ma lì le persone la ammazzano, capito? Me la vede in una bastiglia con mia ricca e me la ammazza e dice, bastiglia, si può immaginare la dottoressa mia di casa non riuscita a sapere perché cosa era quel pastiglia che mi stava dando e mi stavano facendo male. Sono andato, poi un giorno l'ho trovata e ho detto guardi, io quella pastiglia che noi l'ho presa perché sta facendo male, io lei l'ho andata a prendere, non è come a modo suo, l'aveva presa forza, ma io da oggi in poi non ne prendo più, se gli piace così ce l'ho, ce la canto. Dal giorno ho cambiato direttamente, capito? Vabbè dai Gianmarì, io ho arrivato a mia figlia, ci sentiamo più tardi. D'accordo, attendi pure, vai, d'accordo. Dai, c'è pazienza qua. Ok. E attento, buffo! Gianmarì! Tu, c'è nessuno. No, c'è la storia, ha chiuso che stava accompagnando la figlia. E io mi stavo assentando, non c'era nessun altro. Io dato mi sto preparando, sto per uscire, dai, aspetto. Mi vesto veloce. Usciamo. D'accordo, lui ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Saluto Riccardo. Grazie altrettanto, ciao Giovanni, ciao. Ok, ciao. Giovanni. Cosa vuoi? Dammi tu sì. No. Giocando mi sto. Te la mangi un arancio. Cazzo sei, come vai? Perché sono seduto. Adesso va bene. Hai già mangiato te l'arancio? L'ho già mangiato, ma ho toccato un raggio. A proposito, ma se mi pigliavo un poco tu culo. Ci siamo dimenticati. Bravo. Allora mamma non mangi la faccia tua. Fai così. Allora. Allora, infatti mi fai il nastro che fai? Infatti. E lui? Cosa hai combinato? Mi adesso mi sono seduto. Era un canzura e decido a fare pizza, mi pare, Chi? Luca, Montanaro. Si è andato a rimani. Ah, di tre mani andando a fare pizza. Un po' deciso da voi, decido. ha detto sì, mi sono 15 mesi per i suoi cadenti, mi sono 15 mesi per i suoi crescenti. Non lo faccio. Va bene lui. E lui? Cosa vuoi pretendere? Ma funziona già. E cosa? Apparecchio, lo secondo che ti ha aiutato. Non ho capito. Il portatilino sto usando adesso. Quale stai usando adesso il portatilino? Sono in sala. Va bene. Vabbè. Già sta funzionando bene anche questo sempre. E il 4 di segnale, però gli ha fatto la radio è buona, va. Considera che la sala mia già l'hai vista davvero rispetto a casa tua. Hai te, perché no? Caspitina. Attento gufo il giocoliere. È strano che non è entrata ancora, Ho appena moglie, vuoi fare un'altra strippallina, tutte e tre palline sopra. Attento gufo, ti ribuffi le palline. È tutta la riprovente che ci si razza, che si pallino che ci razza, solo lui. Ma a me la ne bocciò un biombo per farvi la puccia. Che ha già fatto così? L'ha già tiro di biombo, ma lo ha stati. Non si sa allenare di più. Cacchio fuccia già la tirata però, Cacchio fuccia. Ma ci devi forzare proprio, ma patatini. A chi l'ossigeno invece pone l'ossigeno in naso, lo so che non si deve pone, ma sai come ti tratta questi pallini? Si riprova il bello, sì. E ci puoi essere un naso, l'ossigeno, se lo devi pone di rondondà, allora trattano i cipallini. Infatti, grazie. Aia, grazie a voi i ballini. Scatta, va, a 70 anni si è ponendo a giocare con questi cosi, boh. Dove la mia se ti va, sì, le palline. Ma è a 70 anni si rimuove a stare in laccio, ma non fa stare in laccio. A chi pensa il trucco? E allora, tutti io che vi so, tombola, non so, a casa si può giocare, no, e devo stare i pallini. Non so che io, ma si può finire il sapento. Si dirà che cosa puoi fare di peggio. No. Io me lo bevo, ho appena muglio. Ciao gufo. Vuol dire che ti ha farato, dai. Non penso sia ancora per i piatti, Allora c'è la francendi. Allora mi rendete. Con la Nutella, che mi piace la Nutella, Dai, non ne mangia più se cose, vai, prendi tu tutto, non mangiarne più. Così, Allora ne mangia di più, mamma. A che l'hanno fatto? Tre cristeri l'hanno fatto. Vai, tra l'altro la prossima volta 6 cristeri li facciamo. Non so io che... Grazie! E non ti rispondi, Ti l'ha atteso, me. Ma se cucinendi, lo sai che tu è lo chef di casa e devi preparare, va, tutta la maratà. Chi lo sta preparando la cena? Ma che gli dati là? Il medaglione, i biasini, cazzo. Si va a preparare il medaglione, cazzo, va. Dopo si fanno 4 primi, 4 secondi, contorni, e da cominciare i semi a preparare la cena. E poi anche il vino bianco. Chi se lo deve mai mancare? Bella bene. Allora che cos'è questo macchinario che la mi intende in macchina, Gianmarì? Da Brico, 1590, una cosa del genere. Ma tu cosa? 1590. E di dire sul degnere. Avvio. Ma saranno. No, che finirà uno con questa bambocca sulle 120, una cosa del genere. E chi dammi? A questo d'ora. Ma vai, gli altri 20 euro di dazzini che sono a mano di dazzini. Ponendo sì. Che ha tanto euro. Vabbè, non devi niente, dai. Non tratta niente che meglio. Ma io la mia vicino c'erano due tipi. Allora, c'era il cespugliatore e sotto c'erano questi due macchinari, uno piccolino che aveva il sacchetto che raccoglieva quello che tagliava e l'altro più grande con motorino. E quello costava una cosa del genere. Quello che costava meno da più come 1590, poi ne hanno un altro ancora più grande del 1800 e qualcosa. Ma se fai la finanziaria, Patti, no, fai una finanziaria, dai, 1499 da conto, e il resto fai la finanziaria. Vero, saranno. E vivi sul Begheri, a macchi. E allora avevo letto male io, avevo, là. Ma lo sai quando si diventa chi ti appassiona in tutti i zenni, quando si possa? I cazzanelli tu rendi sempre. Se mi sa ricordo come ci sono, dai, meglio. Tu sai che fino a un modello che si... che fate solo chissù? Già te lo mando nel cellulare adesso. Se vi sono paghissimo, da anzi va le lame che si muovono, se vi sono paghissimo. Ma un deprima fai, quello di Brick cominciò. Mandami la fotografia per le carenze, che ci va giù vicino. Ma c'è anche lì giù domani, Ti mando la fotografia. Comunque, ce ne hanno due modelli di quelli di chi c'ha benzina. Adesso ti mando la foto. Sì, manda. Ciao Maria! Ehi, Don Malatore! Ehi, cazzo! Sono rientrato, Non è entrato altro nessuno! Non è entrato altro nessuno! Dove sono? Certo, se non è entrato altro nessuno! Ehi, stavo parlando di Luca! Ci ha sentato un attimino, mi ha mandato una foto sullo scatto! C'è anche Luca, c'è! E quale Luca? Il bello o l'altro? Il bello, il brutto è in giro. Ah, così è, andava allora. Cos'è andato a mangiare qualche cosa? Giovane, lui c'ha appetito, no come me. Lui c'ha appetito e c'ha sempre fame ed è andato in giro. Andava allora. Ui, che andiamo bene, andiamo. Catta, bubu. E Bacchisio, non da? Ah, non ho sentito, Veramente non abbiamo lasciato bianco, forse magari voleva entrare e non abbiamo lasciato bianco. Richiamiamolo, vediamo un po', Bacchisio. Che tiene, signor Bacchisio, se ci si dacci qualche colpo? Ah, a me mi pare che sia ancora in campagna. Infatti, non ho sentito. I suoi contendi la gola fiore, contendi ancora, gatta. La gola fiore. E allora, gatta. Qui però. Ah, vediamo a mandare questa fotografia. Ma che ti sviluppa pure. Boh. Ma la San Pendi? Ma che sviluppendi la fotografia? Sì, la San Pendi. Aspetta che è arrivata a to. Ma sono qua. Attenzione, Bacchisio. Ehi! Le vedi le ultime due foto che ti ho mandato? Guarda quelle lì, quelle lì che sono di Bosi e Passi e Trubi e andano in crociera. Le ho viste, ragazzi. Evidentemente avevo letto male io lui, dai. Avevo letto male. Sì. Avevo letto male giù, Allora, il modello a scoppio di quelle lì costa la più barata, mi sembra che costa 259 euro, 259 a scoppio. Ma già lo usano loro, va. Già se lo usano loro che meglio. Cosa vuoi, John Marie? Ha pusato, quindi non ce n'è di quelli, no. Siamo abbastanza andati a un biduccio. Va, dai, prendo domani, siete là. Ma che pensavi? C'è un cespugliatore che fa bene lo stesso, piano piano. Hai visto? In un paio d'ore tagliamo tu una parte e l'altra. Ma questi sono manni, meno, sono giocattolini, no? Vabbè. male della cosa, sono più male ancora, capito? E per cui non fissate, non faccio la borsa pulire, ci sarà. Signore! Signore! Beh, aiuto! Ci andiamo! Certo, con Luca devi mandare! Ma chi se non mi serve a me? Luca vuoi andare a passeggio, vuoi andare Luca, bello. Mi vengono su Facebook e vendendo motofalciatrice 1389. E si dammi le mani, odio. Oh, no, saranno, non li prendo, manca appena, nulla, oh, lasciamo stare, cambiamo discorso, è meglio lui. Super giù come quello che abbiamo visto alla Bricoman. Sì, circa, sì. Laure! Ehi, illuminaci qualcosa, vai! Che cosa devo limonare? Non è giro di che ci vuole di voi! Noi vorremmo di là, ma non ce ne vuole da. Ma dire a Luca se ti rilassi, Ezzo? Se non ha manchetto. Certo, ne pare non ha manchetto. Ciao Mari. Te che eri? C'è un motocoltivatore su Facebook. A LKOBF 5002. 650 euro. Pare più mano di un doio. E ragazzi, cavalieri. Aspetta che leggo, vediamo un po' se ha messo le... 4 tempi, 190 cc, 2,50 kW, fresa, 190 cc, 4 tempi. 4 tempi, beh. E dov'è? A Olbia. Prova a mandare un voto. Vedi, questo è grande lo stesso, fai pità. Sì, mi sembra come il tuo, forse un po' più grande. Aspetta, ti mando le foto. Sì, quello che ho io nuovo è da 44 mi. E io 50. 50, cazzo. E chi ci mette a truppo allora per la foto io. Cazzo. Ma poi non la posso mancare, ci vuoi fare in casa, che è il numero, che è 44, è poco un mese a me. Ma questo è... Fa niente che come te sei tu, fa di raghi, capito? Magari tu già ve la fai. Sto mandando la foto. Dai. Ma poi a mezzo ci vede anche il robot che ti può pigliare tu. Guarda che te ne ho mandato. Ma questi sono piccinini, cazzo, aiuto. Cazzo, che c'è? Ma farò bene anche questi, Cazzo, che ci mettiamo questa zappa e fai due simboli in marcia a fare un coso sopra, a parte sopra, per pulire in marcia. Tutta un'altra cosa, Lombardini, è tutta un'altra cosa, cazzo. È tutto, quasi sette mesi, no, sette mesi, otto mesi cavalli va. Vedi, quello è tagliaerba lui. Quella va benissimo. Quello ci può attaccare anche al motocoltivatore che ho io, che basta comprare il pezzo, c'erano in dotazione, c'erano quando ho comprato il coltivatore mio, però non l'ho preso perché costava troppo allora, capito? Sennò andava bene quello a tagliare, ma questo va bene sui percorsi lunghi, ma sui percorsi corti cosa ne fai? Chi sta il gioiellino? Mi stai mandando un altro, va, 300 euro, Poi questo c'ha il motore per conto suo, capito? Mentre quello che c'ho io lo posso attaccare direttamente al mio, direttamente. Giri il manubrio, perché il manubrio lo puoi girare al rovescio da me, allora si fa attaccare il tagliaerba, capito? Perché c'è una puleggia davanti, anzi dietro, che quando gira il manubrio lì puoi attaccare il tagliaerba, oppure l'aratro, poi sono cattrice, puoi attaccare sul mio, capito? Era questo qua che mi ha mandato, questo l'attrezzo io ho già provato, questo ce l'aveva mio fratello, questo tipo qua, ce ne sono tanti tipi, ce ne sono, assomigli, tagliano, cazzo, anche se dovessi essere alta, la taglio, te la metto da una parte, te la metto mentre taglia, l'ho capito? Per quello che lo sta vendendo, guarda che va bene. 300 euro, ma no, a me non mi conviene una cosa del genere, capito? Ma poi se non avrei uscito non l'avrei preso da prima, capito? No, che se io voglio, vado e mi compro quello che può montare il motocoltivatore mio, e non penso in costi molto. Da salario se ce l'hanno a bancari. Sono una rotta di scatole tutte le volte Gian Maria attaccarlo, da quello dice a cacchi, se no non te la puoi entrare a dritto. No, capito, poi c'è già pronto e poi tanto l'erba la tagli spesso, sicché tanto pare avevo un attrezzo pronto all'uso, invece di tutte le voci attacca uno, c'è calore. Adesso belli, vai, adesso belli, vado bene. Ma questo, tu c'ha il motore per direttamente lui, invece il mio basta attaccare il tagliaerba, che c'è quello per attaccare al coltivatore mio, capito? E questo c'è il motore per conto suo, capito? È per quello che è comodo, perché non fai altro che accenderlo e andare, invece di lasciare a bucare il rutoio, attaccare il rubezzo, tagliare, sciaccare il rubezzo, cioè tutte le cose. No, cosa no! Il mio puoi lasciare la presa attaccata senza staccare niente, che lasci la presa, giri il manubrio e ci attacchi direttamente in tagliaerba su mio, capito? Te lo faccio vedere com'è, capito? È diversa la questione, capito? È solo, non devi solo attaccare, basta, girare il manubrio e sei a posto. Eia! Signore! Eiu! Dai, riprendete voi che metto a caricare questo affare, dai. Ora se lo fa attaccare alla bicicletta, taglia erba con la bicicletta. Ma io ti ho detto, dammi il tuo como, un tuo taglio erba, la taglia. Ho capito. Signore! Eiu! Cosa c'è? Ma non sei bene, la televisione si ha mai detto. Eia! Ma chi c'è? E che canale si ha mai detto? Terzo canale. Altro canale, ho capito. Bene, bene. A cosa va mai detto a Bonuli? Oh, io sto mai detto un Rai 3, un telegiornale sardo. Ahi, è iniziato alle 3 mesi, alle 7 mesi. Eia. Luca, che pensionavo il trattore. Ehi, ma a campagna sua andare bene chi si attrezzi. Luca, compratelo a campagna tua. Si è andato a cucinare, prepara un ragiri. Ma campagna Luca, vivo la ruspa. Senta, se no non vente, il molto coltivatore non vente, solo la ruspa può entrare. Tutti quanti macimandi sono, cazzo, si può passare a piedi, si può passare, non si fa, però il rispo va a farti lungo a passare. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare, e andare, facciamo così. Vero lui, ma che non si può uscire lì, i cinesi, appena che si coligli, che mi sono chissà a casa. Ma vedi già un po' un gorigli Luca, non risponde no, chissà cosa si è mai detto, ma chi? Buonasera a tutti quanti che si sono ascoltati, non ho ascoltato perché c'è da adesso, ho sentito il tore a Gian Maria, avanti Gian Maria. Buonasera signor Macizzo, ben entrato, e non pensavo che era ancora in campagna con tore, cazzo. sto via a Bacchisio, mi contatti le fonti della Gaura là. Che te, bebè. Buonasera signor Bacchisio, ma ora di entrare? È ora di sci, va, a commenti di Dottorini. Infatti, è ora di sci. Ma chi sei? Chi c'è poi? Graziano? Graziano è in fretta stasera. Ah, in fretta, fra i prigioni? Ah, ma tu droppare malasera e a base riposenti. Base lei a riposarsi, ha pavitato troppo. Troppo, troppo. Ahia, io lo so, ho provato a fare il lavoro che mi hai detto tu, ahia, parla sempre che dà, sempre a 174 in Nanda. In chi viene? Io non ho mai segnato l'ingresso, figurate un poco. A Lucca bisogna dirlo, avete se vi ridesce da Cavanniro. No, bisogna andare dai cinesi. E dei cinesi ma che c'è di tutto quanto, pure lo sassareggio. Io non ho mai segnato. Il cinese lo schiccio con i piedi, avanti insomma lì. Ma, all'intendatore, ma chi? No, si può fare pirare la contore, no. Oh, insomma. Sì, certo, bebè, andiamo, andiamo. Andiamo male, insomma, andiamo male. Siamo sempre guai, male siamo sempre. Bello, avanti, diventa tu feo però, Ma Dio che si deve preparare il Brasile, che deve cucinare. E te, ali di pollo, grazie, sta, e cosci di pollo. Ah, e te, e saluti, se da poi ti manda la fotografia, capito? A chi mandiamo fotografia a lui? Ma fate vedere un fumo, per un fumo non si può vedere. Ah, ti rimanete, capito? Un bacchi, il Lucca, capito? Ah, ma ti fate la fotografia e te la mandano. Però la carne ce la mangiate, non è che dici agli amici, venite a mangiare, no? Oh! Ma dietemi la fotografia, dici? Niente, lecca lecca, guarda ti manda. No, un poco dorate, spigole, roba del genere. E pure un pezzo di ricchezza andava bene. Ma mangiamo lo mattessi noi, di viro bacchi. Dai pina la giornata è maragliata. Amore! Già so che no, dici. Catta. Ma lo sai che due preparare nello Brasile e prepararli? Ma andate, signor Bacchi, mi ha fatto una cosa di chi su? Oh, lo munimmo sotto qualche cosa. Oh, che morsa. Ma ci sono qualche. Oh, ha detto, faccio un po' la memoria. Ah, la memoria, boh. E forse bisogna punirlo in una morsa in campagna, così lo faccio finta e le vene la memoria, le vene. Noia, non lo so, qualche ricordo non le lascia come te so, invece di buone le occasioni, lo sai, boh, non vedi nessuno. No, perché sono se giri con il tasto vai sempre con la memoria, vai, e ti dai i canali memorizzati. Sì, va sempre con la memoria, qualsiasi canale vuoi mettere sempre lì qua. Questi sono canali che loro hanno fatto e hanno per provare, forse provavano cosa, e l'hanno lasciato così, non hanno cancellato nulla. Sì, perché anche, ce l'ho anche io così, che ho memorizzato il canale, e non riesci a toglierlo, e c'è i canali memorizzati. A farli perdere la memoria come se si fosse. Allora un cristiano con un pugno a capo per perdere la memoria, è un valachino. Bisogna entrare a vedere la memoria e cancellare la memoria. Ah, se non c'è chi dico, come fai a saperlo tu? No, entrando nel menu bisogna andare dove c'è la memoria e cancellare la memoria, togliere la memoria, ecco cos'è. Ah beh, se è così va bene. Ce l'ho riuscito, però è che se ne ammetta più. Boh. Inglese cosa hai detto? Detto che bisogna entrare nel menu e cercare la memoria, qual è? Ci dovrebbe essere scritto memory. Memory? Poi mi pongo a peccare. Ci vino a ciappo memory, se domani che ti ando a ciappo ti porto io la memoria a te. Ma chi? No, non lo so, io più che altro, boh. Aspetta, Luca! Luca e Alessà queste cose. Luca e Alessà queste cose. Oh, Luca il bello! Stendilo la rossia, va, che si brucia la roba, Gian Maria, tu sinceramente lo distrae e si brucia tutto quanto. L'ali di pollo se si vola, non è che mi sopra. Oh, io già non ci riesco. Sì. Assolutamente. No, su questo portatile già, adesso lo so a memoria, per cui li cambio facilmente, capito? Ma se non lo conosci come fai? Boh, a me me l'hanno fatto vedere come fare e ci riesco facilmente, capito? Perché te l'hanno fatto vedere, ti dici, ma se no noi che non abbiamo studiato una nulla, Gian Maria. Ma poi mi arriva che cose. Boh, senza metti di chiazzo, macchina. Boh, cosa metti di chiazzo, macchina? Ma Tori è bravino, dai, pensaci tu, no? Fatto che non ci sono riuscito neanche io a cambiarlo. Prima l'avevo, c'ero riuscito, ma poi mi sento un rabbo, c'era memoria, che vedessi più. Infatti se la già rombo da una base, bagisso. Aspetta, e allora più di colpo. Tacchi! Leggi il manuale, ce l'hai! Sì, c'ho manuale, tutto ciò, insomma lì, solo... Io non stiamo in un problema solo, che non capisco cosa è, ecco. Leggi, ma cosa hai leggito? Nulla! Una pietra buttata nel posto! Bisogna trovarlo in italiano il manuale. Io l'ho cercato ma non l'ha già avuto in nessun luogo, tutto sempre in inglese, sempre guido in inglese e giapponese mi dà via. E domani me lo vedo un po'. Domani mi avvicino a quello che ripara, al cinese, a vedere un po' cosa mi dice. Ma c'è una ditta che le fa queste cose, orto? C'è una ditta che le fa? Non mi ricordo, vabbè, però c'è. Sì, l'ho richiesto io, il manuale, dice che lo danno solo se acquisti l'apparecchio. È un macello, eh. È un macello. Oh, abbiamo provato a fare quello che c'ha, lo dice il canale, quello lì che non c'ha display, quello lì gatta, è da Gian Basilio me, però dopo abbiamo messo al computer e siamo riusciti a memorizzarli tutti i canali, capito? Lo so, ma Guido che c'ha due frequenze c'ha. Ah, ecco. Ho capito. Boh, io ne ho uno di quei portatili che metto la frequenza che voglio io, capito? È facile con l'altro, però quello c'ha la frequenza, c'era due frequenze pure. Caspita, quello... Ma questo non è il portatile, hai capito? Il portatile. No, non è portatile questo. Ah, ho capito. Ho capito qual è. In uno che ne avevo io, che l'ho dato a Luca, casa prima ero riuscito a metterlo. Dopo era, mi sembra, 2-3 mesi fermo. Lo accendo e sono sparite quelle frequenze. E non sono riuscito più a mettere. Allora l'ho data a Luca, infatti c'era lui e lui l'ha messo a posto subito. Ciao Bacchi, ma vedendo vi provo domani a vedere, se faccio un minuto di tempo, vi provo a vedere e guarda per se riesco a toglierlo io. Io ci provo a voi. Mi do la pinta come se la frausa. C'erano 50. Ci sono 50 parole, in questi 50 ce n'è uno per menù. Sì, guarda a vedere se ci riesco io a toglierlo, per cosa bisogna toccare. Bisogna forruggiare, dice la salese, bisogna forruggiare. Bisogna forruggiare. Signore, l'ora è arrivata. Vi ringrazio delle quattro chiacchiere, vi auguro buona serata ancora, sono state rispettive famiglie e a domani se tutto coincide. Vacchisi in questo istante, ascolta il finalino e vai in QRT. Riprendi Gian Maria, con la buona sera ancora da papà. Andate a testare Bacchini. Ho capito, no, Gian Maria? Bacchini. Andate a testare. No, sono d'accordo. Del merendero per me è arrivato, capito? Gli altri se mi hanno detto anche io chiedo là, anche io chiedo to, io chiedo ragazzi, devo fare cose per cui ne approfitto, dai. Ci sentiamo domani, to, buon proseguimento, saluto a Bacchisi, allora buon proseguimento, saluto in casa, a domani, ok? Ok, ciao Gian Maria, ciao Bacchisi, statemi bene tutti e due. E buona cena, ok, ciao, a domani. Ciao, a domani, buona serata ancora.